Ты заступил, здорово! Да, да, Серега! Thank you. non fischia più. Adesso va bene, non c'è quel fischio cazzo famoso, mamma mia. Ripeti l'ultima parte, Antonio, che stavo spegnendo lo smartphone, che stavo ascoltando Geopolitica. Stavo dicendo che in pratica ho eliminato quel fischio che sentivo io, hai capito? Dall'eco di questo apparecchio. Adesso è apposta. Ah, quindi non era l'autoascolto, no? No, assolutamente, era la regolazione dell'eco. Ci sono tre trimmer, quello già lo so a memoria, quindi posso farlo come voglio io l'eco, farlo lento, così, tipo elicottero, quello che è, ma non me ne faccio nulla l'effetto elicottero a me. Prova. KK. Hai visto che giornata, Antonè? Caspita. Chissà se domani è come oggi. Mi stavo sciogliendo oggi. Lo sto dicendo. Quindi, a un certo punto. Che bello, guarda, quando un fischia, cazzo. È una cosa allucinante, bello. Da ascoltare. Questo è l'Alan 87, giusto? Sì, l'Alan 87, questo è. L'ha fatto Giovanni Rapido, l'ha fatto questo qua. Nella scala c'è il nome suo. Cosa ti volevo chiedere? Ma io mi sto autoascoltando, ma la qualità della modulazione com'è? Boh. Certe volte, vabbè, forse l'effetto vicinanza. Bellissimo, a voglia. Vediamo, ora, 1, 2, 3, caspita, questo mic ti allontani di 2 centimetri e non esce più a giù mai. Ecco, mi sta ascoltando, sì, potrebbe, chissà se, vabbè, se si trova un mic adatto a questo apparato. Cosa ti volevo dire? Ma l'antenna o il palo te lo sta facendo ancora quel difetto? Oh, non lo so la verità, perché sono da un po' che non stavo entrando, quindi a un certo punto non so cosa dirti. Adesso vediamo un po', appena asciuga sa cosa fa detto e mi compro la vernice zingata e gliela passo sopra, capito? Prima la graffio e poi passo la vernice zingata. Sul palo? Sì. Cioè, preferisci quello a prendere il palo nuovo? Perché c'ho paura non sia che succeda magari che arriva un po' di vento forte e che se mi picchia un palo. Cosa faccio? Rimetto nuovo il palo vecchio per quello nuovo? Come dire, meglio una bagassa vecchia che una bagassa nuova, no? Adesso mi ho fatto questa modifica qua all'apparecchio. Dopo me lo immaginavo che funzionava così. C'è la scheda uguale identica a quella che monta il coso. Sono 3 trimmer, quindi figurati. Solo che evidentemente è stato alzato, eccetera, eccetera. Invece io ho preso, l'ho abbassato, l'ho regolato, è a posto. E lo lascio così, non mi interessa niente. C'era un segnale, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Guarda che è morto il padre di qua a Cosomi. Tocca camera d'aria. No, non lo so, non... Aspetta, Luca camera d'aria. Ma chi è? Non ce l'ho presente, Antonè. Quel ragazzo che morava da via Milano dove c'è la cena, a fianco alla cena. Capito? Ma è entrato di recente a modulare, perché non mi sovviene, Antonè. Se è roba di tanti anni fa non l'ho mai conosciuto allora. Un po' di anni fa, la verità. È passato lì, come si chiama? TMR, quindi vita con quello, capito? So che ecco, 3 giorni fa dice papà sta male, dice non posso entrare alla macchina, mi ha detto. Poi ieri in pratica ho saputo che era del tutto, capito? Hola. Vediamo quanto si mangia la radio. A uno però. Prova. Ehi, si mangia un bel di radio. Mi devo attaccare al mic per farmi sentire. Proprio mi devo attaccare. Vediamo se ancora. 1, 2, 3, prova. Beh, attaccandomi al mic ancora si sente, dai. È la voglia che si sente. Funziona benissimo. Lo sai quando gli ho detto una cosa a Antonio? Come l'ho fatto una cazzata, perché cazzo l'hai dato l'apparecchio che ti ho dato io? E tu perché sono merita, gli ho detto, mi ha toccato 5 apparecchi, non ho capito, gli ho detto. Non me l'avrei mai fatti pagare. Quindi, a un certo punto, ti ho scusa, sono merita, a voi sono merita, cazzo. E poi mi è dispiaciuto del conto di 4.000 ve l'ho dato, perché che c'avevo 120 euro di utile da pagare e non sapevo come cazzo fare, cioè, tutto lì mi è stato vicino e quindi a un certo punto mi è sembrata una cosa giusta fare una cosa del genere per tutto quello che mi ha dato, gli ho detto. Allora diceva, hai fatto bene, non sapevo nemmeno quello che, capito? Quindi sei tranquillizzato, capito? Ehi, Antonè, naturalmente io l'ho accettato con piacere, però ricordati, è come che fosse quasi un prestito a lunga scadenza. Per il giorno che dovessi avere necessità o che vuoi che torni, è come la storia di... Ti ricordi di PMR digitali? Io te l'avevo regalato, però poi alla fine non lo usavi mai, non si usavano mai e alla fine me l'avevi restituito. E questo è lo stesso. Se un giorno tu volessi utilizzarlo, anche venderlo a Tonello, sai che tanto gli apparati qua non mancano, però aspetta che la modulazione proprio non mi piace, ecco, questo è più naturale, non assai però, va bene, capito Antonè? Ah, perché 5 addirittura te ne avevo dato, e quali erano in tutto? Erano allora il Connex, il 500S, forse il Viking, però non mi ricordo se quello te l'avevo fatto pagare o regalato. No, me l'avevi regalato, non era il Viking, era Multimode 2, quindi figurati tu. Poi io l'avevo regalato quelle, vabbè, l'esaurito di sopra, con la BA27L, il cavo, eccetera, eccetera, e poi mi ha girato i coglioni quando dice mi deve regalare il, come si chiama, i portatili. E dove sei caduto? Dal letto non sei caduto. Fa una cosa, va a far culo, e non mi cercare più, così l'ho fatto. Arrangiati, fa quello che vuoi, di quella roba che ti ho dato, ce la puoi anche buttare per me, non me ne sbatte un cazzo. Tutto lì. Poi non ne ho parlato più per quasi 3-4 anni, quindi non ci sto neanche più salendo, figurati tu. Un giorno è venuto lui di qua, mi ha dico, mi ha detto, dice, i ricchi, dice, vengono qui, dice, bene, mi ha detto. No, gli ho detto, veramente sai che sono i poveri, non i ricchi. I ricco sei tu, gli ho detto. Il povero sono io. Tu sei ricco, ti sei ritirato, ho detto, 200 euro, ho detto, dalla morte di tuo figlio, gli ho detto. Io figli non ne ho, grazie a Dio. E non ne approfitto, ho detto, di chiedere soldi agli altri. Il discorso è quello, è rimasto zitto. Vabbè, da. No, Antone, allora, era il Viking 2, non motivo del Viking 2, che era solo AM/FM, ti ricordi? 160 canali AM/FM, ed era piccolino in frontale e lungo però in profondità. E vabbè, il Viking 2, già me lo ricordo, sai, Medi e Leo, come si chiama, quindi... Io ho lavorato la via 27, ho lavorato 15 metri di cavo, LG213 e l'alimentatore squishing fatto da un, come si dice, da un, da un computer, quindi figurati tu, sono salito sopra, gli ho installato, gli ho stato su tutto, poi la madre, la moglie ha rotto le palle un po', capito? E quindi la giovità casco fa quello che vuoi, ho detto, a me non me ne frega nulla. E vabbè, non ne parlare di queste cose, dai. Quando hai chiamato sul canale, stavi facendo le prove, stavo per stendere, poi dovevo mettere un altro bucato veloce, perché altro risciacqui, e poi mi stendo anche quelle. Cappa. Io non è che stai parlando male, sono una verità, è quella, capito? Il discorso è quello lì. Quindi... io avevo visto poi... l'anno scorso l'ho visto, siamo visti al bar e basta, al bar di qua sotto. L'ho salutato e poi un giorno c'ero andato, poi basta, a bere una cosa. Dopodiché non ci ho più frequentato, il discorso è quello. Anzi, sono salito con lo scooter della vita. Una lì. Sono bevuto la birra e sono sceso poi a casa. Sono salito da Precalo Felice, ho fatto tutto via Milano, via Milano poi sono entrato, come si chiama, la Berghiero, poi sono passato dalla parte opposta. Quando per non ci sono più visti. Ho compreso. Ok. Antonio, allora vabbè, io faccio questa roba qua, poi vediamo se rientro dopo. E poi ti eri procurato quella staffa, non mi ricordo staffa per cosa, ma per quell'apparato era, volevi fartene una? Devo andarci, anche perché devo prendermi la macchinetta per la pressione, capito? Quindi devo andare lì dai cinesi, mi compro la macchinetta da pressione e poi passo via da Brickoman, se c'è, di queste staffe, prendo la staffa del palacchino, che ho questo qua, e me la faccio fare uguale. Perché ho guardato in rete, purtroppo questo apparato è più largo di, credo che sia da mezzo centimetro a un centimetro rispetto al 3009, adesso non mi ricordo esattamente, però occhio, vediamo un po' se pareggio questo lato, più o meno. Guarda, se non è un centimetro è 9 mm più largo, quindi la staffa del 3009 non va bene, nemmeno adattandola, anche se allarghi un po' i bracci non va bene. Ci vuole la staffa sua oppure quelle staffettine forate da Brickoman, quelle anche ad angolo. Certo, diventa una cosa un po' dozzinale, però per appenderlo in macchina con quelle viti a galletto che uso io va più che bene, lo sostiene a voglia. Quello sì, a voglia. Ma anche in casa mi per tenerlo sollevato, no? In modo che l'altoparlante faccia uscire bene il suono. Io adesso ci ho messo un pezzo di legno, un tassello di legno che avevo, in modo che esca il suono dall'altoparlante, però è abbastanza basso come altezza. Sì, vabbè, già si procura, non è quello il problema, non ti preoccupare. Qualcosa si troverà in giro, non è quello il problema. Ah, poi avevo controllato lo schema elettrico e questo montava i 19,69, oppure quell'altra alternativa di cui c'è la sigla, quindi finali obsoleti, perché quando tu lo metti a 5 watt non è normale che la modulazione si abbassi a tal punto, però perché ho il mic che comunque non ce la fa più, la membrana potrebbe essere o quella mollettina, già lo sai come è fatta la capsula dinamica, no? Potrebbe essere mezza inchiodata, che ne so io, però non ho trovato lo spinotto a quattro poli per mettere i fili volanti e fare la prova con i mic normali o amplificati, capito? Ho capito. Aspetta, proviamo. Io adesso provo. Vabbè, dato per provare. Una capsula di un video di citofono. Vediamo come esce con questo apparatino qua. Sì, provo un po'. Ah, poi ti volevo dire, poi bisogna vedere se i finali che sono dentro la radio sono quelli originali o se sono stati cambiati con roba magari non proprio giusta, capito Antonè? Citofonica. Infatti me la sono capizzata, mi sento, stavo andando con 3.009, guardi tu. Sentore di sentire appena appena di saturazione, appena percettibile, non è proprio pulitissima me. E vabbè, devi tenere conto che sto usando il microfono. Aspetta, ragione per l'altra macchina acceso, il telefono. Fanculo. Se lo metto vicino a come si chiama. Ah, ecco. Cosa ti volevo chiedere, ma funzionava ancora quel portatile, quel mattone nero della Intec che ti avevo dato? Mi pare ti avevo dato, ero riuscito a trovare anche la custodia con tracolla in finta pelle, ti ricordi? Mattone, non mi si ricorda, non mi ricordo più, cazzo, che cosa è quello? Guarda, non ricordo la sigla, credo che fosse un Intec ed era un mattone nero con dei pulsanti frontali, c'aveva il display canali e lo smitter mi pare con 4 LED, o giù di lì, ed era quelli che in origine aveva l'antennone lungo, però credo che fosse rotto, sai che non me lo ricordo nemmeno io. No, non era quello, era l'Indico 50S che mi ha dato. Quello l'avevo messo a posto e l'avevo dato a Torino Kawasaki, e infatti il Torino lo usava a mettere portante a come si chiama? A Natalino, il suocero, capito? Ah sì, al vicino di casa. Ehi, andava a comprare, è venuta a casa, dice, mi sembra importante, mi ha detto, io c'ho questo, gli ho detto, l'Indico 50S. Era, in pratica avevo l'antenna sulla sciatta, ho preso l'antenna di quell'apparecchio, come si dice, quel 40 canali AM, che diciamo, il display e lo splitter sopra. Capito, e ce l'ho ancora quello, pensi, ma io ti parlo di quella pelle che c'ha minimo 20 anni, se lo trovo uguale me lo compro, guarda, di nuovo, perché è veramente bello, pesa, la verità, perché pesa, però ci voglio 12 batterie, però pompa, cazzo, quello, cazzo se pompa, e più c'è l'attacco del microfono esterno, te lo ricordi? Allora Antone, l'Endicom 50S non è, perché io non l'ho mai avuto, era un altro apparato CB dell'Ente che era più grande, proprio un mattone nero era, e vai a sapere il modello, vabbè non è importante, dai, era giusto per ricordarmelo io più che altro. Il maglio stai dicendo tu? Non è. Può darsi che forse è marcato la faglietta, adesso non mi ricordo Antonè, quella che aveva le rotelle sopra, Blume Squelch, poi aveva il display canali frontale e però dei tastini, perché il 50S non ha pulsanti frontali, quello aveva dei pulsanti frontali dove potevi spegnere l'indicatore di canale e mettere, che ne so, 5 watt, mezzo watt, non so se è presente, vediamo, se trovo la foto te lo mando. Ha avuto portante, forse ho capito quale stai dicendo tu, quello che c'ha i LED rossi, stai parlando tu, ma Smith non ne ha, capito, che aveva volume e scratch sopra, che ti ho capito quello che stai dicendo tu, però io, a me mi è venuto lì, l'Indico 50S con lo stilo che infatti dice adesso è tutto Antonelli, mi ha detto chiamalo giù, io non ti preoccupare, poi ho preso e ho staccato lo stilo dalla maglio 40 canali, l'ho messo a quello lì, quell'apparecchio che ti ho detto io, e l'ho lavorato a Torino Kawasaki, che serve un apparecchio per mettere portate il suo, cioè mettere la portata a Natalino, in modo da farlo parlare sui 40 canali. A Consisemo, allora l'ho trovato, ti ho mandato la foto, Indicom 40S, pulsantini, smitter a LED, sì, LED rossi, hai ragione, però io il 50S non l'ho mai posseduto, quello te l'ha regalato qualcun altro, guarda la foto di quello mio, e ti avevo trovato anche la custodia finta pelle con la tracolla, mi ricordo. Aspetta. Sì, questo sì, questo l'ho avuto, sì. Poi mi avevi dato anche l'altro, quello è quello. Mi avevi dato anche quell'altro, mi avevi dato. Lo sto dicendo io, mi hai dato due, non lo so, due. E l'Inter che è quello con il latte se l'ha bruciato, mi ricordo. E poi mi avevi dato l'altro modello, e da lui ne avevo fatto uno, in pratica. Infatti ho smontato i pezzi da lì e avevo piazzato il trasformatore. passato in quell'apparecchio che avevo dato a Bruno Kawasaki. Perché me l'ha chiesto, dice questo cosa ne fai? Io ho detto non lo sto usando adesso, ho detto Marco, gli ho detto ho preso lo stilo centrale, ho tolto uno e ci ho messo l'altro. E sono detto sono uguali. Tutto lì. Sì, già ci ho preso. Però è strano, io non, il 50S non l'ho mai avuto, io ne ho avuto tanti di portatili, cioè non tantissimi, però proprio il 50S no. Mi sarebbe piaciuto averlo. La stessa che sto facendo mente locale, eppure portatili avuti, guarda, storico era l'Excalibur 80 che mi hanno bruciato elettronicamente proprio. Il Max con 7, gli altri erano i Great 3 canali, sì, alias Inuit, aveva due nomi, vari nomi, e poi ho avuto un... vabbè, roba della... roba vecchia, ho avuto Sequal Intec, quelli col display a cristalli liquidi, tipo il 20 LX... o roba del genere, quelli un po' più moderni, ecco, che però non, con quell'antennino non fai niente, capito? Però il 50S proprio non me lo ricordo, Antonio, quello te l'ha dato qualcun altro, veramente locale. Cioè io, se io non l'ho posseduto, non posso avertelo dato. Questo vicetto che mi hai dato tu, infatti l'avevo provato un giorno, quando ti ho fatto la modifica dell'antenna, gli ho detto Marco, dato che tu non uscivi perché c'era l'antenna a pizzi, gli ho detto ho cambiato l'antenna, gli ho messo un'altra antenna, mi senti? E tu mi hai detto sì, ti sento benissimo. Da qua, dalla finestra, lo sto dicendo, c'avevi anche quello, avevi preso anche quello. Guarda, sto cercando di ricordare, ma siamo in alternativa a quale poteva essere. Porca miseria, guarda, non me lo ricordo. Ma comunque sì, questi portatili dovevi mettere un bel di pile. Pile o ricaricabili. Per esempio nel Maxcom ci stanno 10 stilo, ce le avevo anche mie nuove, comprate nuove, caricate, provate, poi le ho lasciate perdere, cioè le ho lasciate dentro l'apparato scollegandolo per il modo da non scaricare anche da spento, perché poi una dispersione c'è sempre. E una sera provo ad attaccarlo e lo faccio lavorare in batteria in modo da scaricarle, così me le ricarico tutte in serie, capito? Devono lavorare tutte assieme quelle. Lo so, vedi. Adesso sto guardando. C'ho guardato la Intec. Mi dicono quello famoso, cazzo, quello della Intec 310, quello era bello, cazzo, va a fare ancora a me, cazzo, guarda la verità. Quello me l'ha parecchio, era. Vabbè, gli sbagli si fanno, cazzo, a volte. Era roba vecchia, no, quello qua non ce l'ho. Ne caro la Intec del... del 2008 non ci sti, quindi prima. Quelle antenne dei portatili, le vecchio stile comunque erano delicate, perché bastava che tu tirassi appena appena, magari per la fretta, tiravi appena appena lo stilo mentre lo aprivi e usciva quel fermino in rame, quella specie di lamella, no? E si scassava lo stilo, te lo trovavi diviso a metà. Troppo delicate, me l'è successo in più occasioni, sia col 40, con l'Endicon 40, con i Great, anzi col Great mi si era, quelli che sembravano radiotelefoni militari, no, d'aspetto, mi si era rotta la bobina centrale, ma io non avevo fatto forza a niente, l'ho aperto, eccetera, tac, si divide la bobina, perché lì aveva una bobina centrale e da buttare. Poi il filino era talmente sottile, non potevi saldare niente, non veniva bene nella posizione. E così è. Invece quello del Maxcom 7 era un po' più robusto, infatti tuttora è integro. Vabbè, Antonio, io riprendo a fare di questa roba, lasciano, non mi asciuga la roba, e ci sentiamo forse più tardi, vediamo. E vabbè, adesso ascolto, c'è problema. Ok, la bioccomi, abbiamo mangiato un po' tardi oggi. Cioè, vabbè, ce la siamo presa comoda perché sennò la serata è lunga, però mi sta aprendo. Guarda, questo divano è magico, io come siedo su questo divano mi viene un sonno che a letto non mi viene. Come mi metto qua, magari ascolto un po' di roba, mi trova piegato trumido sul divano, seduto però e non sdraiato. Cerca di farlo quando trovi qualche ragazza, se no già lo fai la fame, me la figurami, tu sei là, come ti senti tu? Quello sarebbe grave, quello sarebbe veramente grave. Vabbè che uno che si addormenta in una situazione del genere o è narcolettico o non saprei. Va bene, Antone, nel caso a dopo, io faccio qua questa roba, nel caso, se no ritieniti cordialmente salutato, ciao. E io perché sono qua in ascolto, quando vuoi non c'è problema, basta chiamare, già sono qua in ascolto. Sai cosa faccio? L'effetto Todio. Antone, sto andando a batterie, sto andando con le pile stilo del portatile, appunto il Maxcom 7. Com'è la modulazione? Solo la modulazione, mi interessa solo quella. Sto parlando a 2-3 centimetri dal microfono più o meno. Ebbene, lo sai che Maxcom 7 è uno dei portatili migliori che ci sono in vendita, quindi figurati tu. Ah, peraltro Antonio, avevo trovato la lista di tutti gli apparati posseduti negli anni così 80-90 e confermo che non c'era l'Endicom 50, c'era il 40, poi il 20 LX, poi quelli più vecchi diciamo appena siamo entrati, eccetera. Non ne ho avuti poi molti portatili, ho sbagliato io, portatili praticamente erano due all'inizio, tre da, di cui due uguali, e poi vabbè avevo avuto il 40, vabbè il Dynacom 80 era il più bello, ecco quello era il più bello, quello lo sto piangendo tutt'oggi. Lo so, ieri ho visto due Agen Quinto che stavano vendendo, stavo per pensarci la verità, mi fate prendere due e fate un regalo, ma per il momento mi hanno bloccato il corso. Hai capito? Senti quelli di cosa che hai posto d'ora, che non è sette. Se no l'avrei preso tutti e due, stavo avendo due. Non mi ricordo quanto ne voleva, la verità, su Facebook era. Ma non regalare nulla, Antonè. Se prendi roba, goditela tu. Io non so più dove mettere gli apparati. Sì, vabbè, ma le voleva, cioè, da due, capito, non ne voleva molto, la verità. Quindi mi sono bloccato lì, anche perché stamattina Ale, in pratica, ha andirato roba da Shane e risultava consegnata, invece consegnata ai coglioni. Fusti dura, hai capito? Dai siti cinesi. Il discorso è quello lì. Bisogna stare molto attenti, bisogna stare. È peggio di quel sito che ho trovato io. Ti segnano consegnato, invece non hai consegnato, se lo mangiano. Comunque Schlein, aspetta, Schlein, come si chiama, dovrebbe essere un sito affidabile, però lì è, Antonio, lì è questione che il corriere potrebbe aver mollato il pacco nel portone, nell'androne, dov'è? E se n'è andato, magari bussa, non risponde nessuno, lo butta lì e si inanda e mette consegnato. No, non ci credo, non è roba così, non ti preoccupare, devi firmare. Io quando me l'ha consegnato quel cazzo di pacco da 120 euro ho firmato, quindi devi firmare. Non è possibile che tu prendi e butti anche se hai pagato, cioè anche se pago la consegna. Ho già pagato, deve forza pagare, se no cazzo denunci quello che è, hai capito? Quindi ci vuole cazzo c'è un certificato, devi per forza firmare, se no niente da fare, c'è una persona che ha firmato, che ha ritirato il pacco. È strano perché di questi tempi i corrieri non fanno nemmeno più firmare, nemmeno Poste Italiane. Chiede il nome, se sei tu potrebbe essere un altro che sta uscendo al portone e dire lei è tale e tale, sì sono io, prego il pacco, arrivederci. Nessuno fa più firmare, Antonè, se non proprio in rari casi che hai trovato uno nuovo, scrupoloso, che tiene al posto anche, capito? Una volta c'era un ragazzo di SDA che mollava tanti anni fa, arrivava in pacchi, bussava, non trovava nessuno, firmava lui e mollava il pacco nel portone, e nel pianerottolo almeno, là, visto il piano rialzato vicino, E una volta l'ho beccato uscendo, ho detto no, ho già firmato. Chi ha firmato? Scusi, se io sto arrivando adesso, chi ha firmato? No, ha firmato una signora, buongiorno, fuggendosene. Infatti avevo chiamato l'SDA un paio di volte. Per la metà questo ragazzo, ai tempi però la firma era proprio richiesta, ti facevano firmare, adesso nemmeno più. E questo aveva firmato, ho detto, se hai evitato la mia firma è già sottoposizione di persona, è una cosa un po' delicata. Vabbè, però i pacchi per fortuna li avevo trovati nel portone, nessuno se li era rubati ancora. Sì, vabbè, ma il problema sai cos'è? Sai quante volte a me mi è capitato di entrare su Shein, siccome lei il pacco l'ha preso su Shein, quei siti cinesi, e ti risulta già consegnato, quando mi ha consegnato un cazzo, anche su Temu, ma sai se dica cosa, dice, buongiorno signora, gli abbiamo consegnato un pacco a me, cazzo, se non sai né nome né cognome, né un cazzo, né via, mi consegni il pacco, e allora cazzo me l'hai consegnato. Oppure è stato fatto sparire in una, che ne so, in una zona intermedia, non dico il corriere finale, proprio il ragazzo delle consegne, ma qualcuno magari prima che arrivasse anche a Sassari, chi lo sa? Adesso mi stavo confondendo Shein con Schlein, ho detto lo stesso cognome di quella bruttona di sinistra, invece no, è diverso il nome del negozio. No, sono i cinesi che fanno così. Prova. Ci scrivono, prova. A me, che mi hanno scritto, quando è stato costruito un pacco. Prova. Ma non è cazzo, ho ricevuto niente, non ho dato né nome, né cognome, né via, né niente, hai capito? Quindi lo fanno apposta. Infatti gli ho detto a Giovanna, senz'altro quel pacco, gli ho detto devi andare dietro lì al, come si chiama, tanto lo consegna o la PMT o la LGS, due sono le cose, ti informi e sai tramite il nome e cognome se il pacco ancora di là o te lo devo consegnare. Ascolta, domanda, tu ti ricordi il codice, in grosso modo il codice del pacco, come iniziava? No, non lo so, a me mi ha chiamato Alessio e mi ha detto solamente che il pacco dice che ci ha scritto già consegnato. E siccome è capitato a me nel telefonino e ti scrivono e il pacco è già consegnato, hai capito? Io a parte che non avevo preso niente in considerazione, quindi a un certo punto già che tu dice, il suo pacco è già stato consegnato, come fai a consegnarmi se non sai né nome, né cognome, né via, e che cazzo, hai capito? Evidentemente lei ha preso, non lo so, ha preso una fottitura, lo sai, questi siti cinesi, è un casino, sono una truffa, insomma, hai capito? Il discorso è quello lì, tipo Temu, cosa del genere, sai quando AliExpress a volte. Allora, io da AliExpress ho comprato un pacco di roba, Antonè, tanta mia zia da Temu, un saccaccio di roba è sempre arrivata. Adesso ti dico, da AliExpress quando la roba non è arrivata. Allora, il pacco entrava in Italia, no? Fin lì ci siamo. Però se finiva nelle mani di Fulmini Group e quindi il codice cambiava in FLM e poi dei numeri, no? FLM, il pacco dovevi considerarlo già bruciato, perché sistematicamente, come entrava in Italia, come li prendevano in carico, li indicavano come consegnati e tu pacco non ne vedevi, i pacchi avevano sistematicamente rubati, nel vero senso della parola, rubati. E quello ti sto dicendo, secondo me è quello che è successo a lei, sono vestitini mica, hai capito, la cosa è quella. Ma la colpa non è di Temu, di Shein o di AliExpress, la colpa è di questo Fulmini Group, che è un'azienda neonata siciliana, dove non sanno, non fanno, non sanno fare il loro lavoro, capito? Se li chiami al numero verde sono dei cafoni, lasciamo perdere, gente che non deve lavorare, non deve, meglio che si prenda il reddito di cittadinanza per non far nulla, però almeno evitiamo di fare danni. Certo, ho capito, cioè, tipo quello, vabbè, meglio di quello che è successo a me, quindi a un certo punto, ecco perché non mi fido, non mi fido più di farmi, di farmi arrivare fuori, o su Amazon, dove sa le cose, forse è l'unica che si salva, poi gli altri, non mi interessa. Ho guardato Temu, cosa, quell'altro, intanto AliExpress mi scrive, guardi che il pacco gli è stato consegnato a me, cazzo, se non ho ricevuto un cazzo, che cazzo è il pacco, se non c'è nome né cognome, come cazzo ha fatto uno a consegnarmi il pacco, me lo spiego. Te l'ho detto, può succedere quello. Infatti avevo chiesto ad AliExpress, espressamente le ho detto, please don't, aspetta com'era, perché in italiano si prega di non affidare la spedizione alla Fulmine Group italiana, cioè di usare un altro sistema, perché i cinesi avevano fatto una specie di, penso come di accordo, di no, perché gli costava poco il servizio di consegna, però questi non consegnano, il problema è quello. Però credo che da un bel po' AliExpress abbia ricominciato a consegnare tipo composte italiane, sì, composte italiane, tutti gli ultimi pacchi mi sono arrivati composte italiane, e arrivavano anche in pochi giorni, ti dirò, e niente, stranamente niente dogana. Hai visto, ci facevamo lo sgoppo. Sai che mi sembra di aver trovato, no, che è morto di Duca. Antonella, me l'hai detto a inizio serata, cos'era l'Alzheimer che sta venendo? Sì, vabbè, c'è una cosa data, sì, stamattina sono andato a lavorare, quindi c'è una cosa all'altra, me la fa cuffia. C'ho l'Alzheimer, sì, scusa. Pensando da una parte all'altra, poi cazzo devo fare quello, devo fare la spesa, devo fare quell'altro, cazzo. E ti arriva la chiacchiera, non ti preoccupare. Marco, mi auguro di... Perché... poi se no, cazzo, batterai, dipende dall'inferno, cazzo. Vai di qui, vai di là, devi fare, come si chiama, visite mediche, eccetera, eccetera, portare quelle visite, come si, a casa, poi portare uno, andare dal medico, poi dal medico deve andare in farmacia, cosa del genere. Ci passa tutta la mattina, alla fine cazzo, non ti ricorderai neanche lì, guarda lì, tanto per dire, che, vabbè, tu non fumi, andare a comprare le sigarette, la verità, perché uscire in testa. Sì, sì, già lo so, aspetta che mi tocco le balle, scusando il termine per chi ascolta, però dai, balle si può dire, è più banale come termine, altrimenti l'ho detto apposta, ci mancherebbe, e poi chi lo sa, tanto detto che di qualcosa bisogna sempre, va bene, ma come mai il segnale è così alto qua? Cioè il baracchino senza antenna si riceve il segnale, non la manca. Anche tu sei più all'occulto. Ma sai cos'è? Non lo vedo perché è incassato qua nel... E infatti è acceso, hai zitta. Questo è il solo apparato, prima c'era qualcosa di aggiuntivo, L'ha pizzicato la lampetta. Vabbè, la scarpetta. Ma la scarpetta, cosa c'entra la scarpetta? Ma se ricevi un discorso, se trasmetti, no? No, era la trasmissione, c'era il lineretto da prima attaccato e... Come ho attaccato il portatile, stava andando non con 2 watt o 3, ma molti di più. Ah, ecco, è questo. Vabbè, adesso l'ho visto. l'apparecchio che sto usando io adesso funziona benissimo, l'ho regolato, ci voleva un cacciavite piccolino e basta, non c'è bisogno di toccare come hanno fatto gli altri, non lo so, il trimmer per amplificare di più, è utile, cioè avere un fischio, gli metti un filtro, non gli fai proprio niente. L'apparecchio deve essere così come è nato, basta, il discorso è quello. Poi chi ci ha messo maloretto non lo so. Comunque l'apparecchio l'ha fatto rapido, uno di fuori. Ovviamente di questo effetto ecco. Tipo cosa? Non me ne frega proprio un cazzo, aspetta. Anzi, secondo me gli metto il cambio di trim e gli metto l'effetto cattedrale, la chiesa, così almeno posso fare la messa, che è una cosa molto meglio. No, ma infatti è quello che dicevo di quell'eco, cioè non è un vero eco che ripete la parola, cioè se tu dici ciao, e quello fa wuh wuh wuh, oppure dici come va, e quello wuh wuh wuh wuh. Il vero eco ripete la parola, come l'eco normale quando sei in montagna, che dici qualcosa e la ripete. Sì, qualsiasi cosa tu dica, senti questo wow wow wow wow. Che eco sarebbe? È un... non so come definirlo nemmeno. È la gaggata, il discorso è quello. Ti ricordi l'effetto dell'eco che avevo io quando ho venduto il Saturn Echo, che ripeteva una parola sola, sembrava di essere in chiesa. L'effetto cattedrale, quello era bello, era veramente bello, era unico e raro. Quale hai detto? Il maior eco? No, è stato un eco, l'ultimo che ha avuto, che si è pigliato, cioè, ha comprato Piero Drago, che poi se l'ha venduto, adesso non so se l'ha venduto lui o non so cosa, ma comunque sia, era l'unico effetto eco che è uscito bene, veramente bene, tra le mie mani. Diciamo, l'effetto cattedrale della chiesa, cioè in pratica io parlavo e tu sentivi l'effetto cattedrale della chiesa, non sentivi un effetto ecco ripetitivo 4-5 volte, solo una volta e basta. Ah ecco, sì. E beh, un po' come quell'eco digitale che hanno, che magari, no, non è digitale, l'ho detto una stronzata, l'eco è, come dire, sai, 7009, hanno quest'eco, anche il 5555, ha quell'eco lì che regoli sia come volume e sia il numero delle ripetizioni. Cioè il volume fa anche, aumenta anche il numero delle ripetizioni. E poi c'è, ecco, la velocità della ripetizione, se è più lenta o più... Sì, quello è apprezzabile, purché sia leggero leggero. Ma quello appunto, la parola la storpia, quando sentivi chiamare il 45, attenzione, canale 45, poi buah, buah, buah. Vabbè, comunque i gusti non si discutono, Antonè, c'è chi piace, se gli piace se lo compra e se lo usa. Ormai la vendita degli apparecchi 500 euro è già finita, non è stato comprato più nessuno, hai capito? Chi ce l'ha, ce l'ha tenuto, ma ormai non ne vendono più, è finita l'era, hai capito? Sì, guarda, una volta c'erano molti più camionisti sul 5, sul 45, anzi proprio quando c'erano i camionisti il canale monitor era il 5 e spesso ci si intestardiva a rimanere sul 5 quando quelli si lamentavano, non capisco perché, cioè sapevano che quelli lo usavano per lavoro, per diletto e lavoro eccetera, niente, ci mi volevano rimanere lì, quando si lamentava dice ma il canale non è il vostro, è di tutti, bla bla bla. Poi come sono spariti i camionisti abbiamo adottato il 10. Era un po' come ai tempi delle barre nautiche, molti andavano sull'uno pur sapendo che lì le barre nautiche magari lo usavano come monitor, come coso, anzi più si lamentava il pescatore o la barra nautica e più la gente rimaneva sull'uno, Quello è, vabbè, l'essere umano che è fatto così, capito, che deve rompere le balle a qualcuno. Quello sì.